le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Scontri tra studenti e polizia davanti all'Università La Sapienza di Roma. Cariche, due fermati, lancio di petardi e bombe carta, mentre dentro si svolgeva un convegno sull'ambiente. Prosegue la protesta dei forconi. Intanto blocchi stamattina a Ventimiglia, sgomberati con tafferugli. Alfano dice c'è il rischio di una deriva ribellista. Chi è nelle istituzioni non cavalchi la protesta. Berlusconi parla con una radio francese e dice se mi arresteranno sarà rivoluzione. In Italia 4 colpi di Stato, aggiunge il leader di Forza Italia. Arrestata per truffa e peculato Rosi Canale, fondatrice dell'associazione antindrangheta Donne di San Luca. La settimana scorsa era stata arrestata anche l'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto. È morto Angelo Rizzoli, era affetto da sclerosi multipla. La moglie, la vicenda giudiziaria gli ha spezzato il cuore. 4 mesi fa la sua condizione era stata dichiarata compatibile con la detenzione. Stasera la finale di X Factor, ospiti gli One Direction, l'albergo dove sono ospiti a Milano, assediato da decine di ragazze. Lavori tutto il giorno ma di soldi non ce n'è. Se ti sembra che sia giusto, diremo. Ed eccoci qua, iniziamo da quello che sta succedendo alla Sapienza. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare lo potete fare al 349-238-6666 oppure su Twitter l'hashtag è Effetto Giorno. Leonardo Rossi dalla Sapienza, che cosa succede e che cosa è successo? Buongiorno. Buongiorno a voi. Beh, per ora c'è una calma apparente adesso alla Sapienza, ma le forze dell'ordine... Mi sentite? Ti sentiamo perfettamente, Leonardo, vai. Ok, dicevo che le forze dell'ordine si aspettano qualcosa dai ragazzi e dai sindacati di base che stanno manifestando in queste ore. La manifestazione è iniziata questa mattina intorno alle 10, quando gli studenti sono partiti dall'Istituto di Studi Matematici per andare a manifestare di fronte alla sede del rettorato e all'Aula Magna, dove appunto era in corso un convegno su energia e ambiente, dove erano attesi anche l'intervento di Giorgio Napolitano ed Enrico Letta, che però non sono venuti ma hanno mandato uno una lettera ed Enrico Letta un video messaggio. La situazione è andata degenerando quando la polizia ha caricato i manifestanti che cercavano di entrare all'interno dell'aula dove si teneva la conferenza. Sono stati esplosi anche dei petardi e poi i manifestanti sono stati respinti dietro il cordone di sicurezza che la polizia aveva retto intorno alla lavagna. In questo momento la manifestazione si sta muovendo intorno a un circuito dalle 10 appunto e per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Leonardo Rossi, teniamo sotto occhio la situazione, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Non è la sola manifestazione, ormai lo sapete bene, in corso la protesta dei cosiddetti forconi. Andiamo a fare un quadro generale di cosa sta succedendo in queste ore e poi andremo nel dettaglio a vedere che cosa è successo invece stamattina a Ventimiglia. Allora, quadro generale come ieri da Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e agli ascoltatori. Allora, oggi è il quarto giorno di proteste. Poco fa l'ANAS ha diramato un bollettino in cui specifica tutti i tratti autostradali sui quali ci sono forti rallentamenti. Cominciamo dal nord perché ancora una volta Torino presenta il fronte più nervoso, sta proseguendo senza una meta precisa, causando anche dei forti disagi al traffico il corteo degli studenti che si è formato questa mattina in Piazza Castello. Alla manifestazione che si è fermata per alcuni minuti davanti al municipio si sono uniti anche gruppi di antagonisti dei centri sociali. Tra l'altro la Procura di Torino ha chiesto la custodia cautelare in carcere per 5 delle 6 persone arrestate in questi giorni in città proprio in occasione di queste proteste del cosiddetto movimento dei forconi. Per una 6ª persona, un camionista che ostacolava il traffico, sono già stati disposti i domiciliari. Per quanto riguarda Milano, nonostante il corteo non sia stato autorizzato dalla questura, il movimento dei forconi continua la sua protesta in piazzale Loreto per appunto il terzo giorno consecutivo in questo caso. Poco più di un centinaio di persone che si sono radunate su alcuni lati della piazza e poi ogni 20 minuti paralizzano il traffico. Spostandoci verso il Veneto, anche qui presidi lungo le strade di una decina di località soprattutto in prossimità dei caselli autostradali. Da segnalare che questa mattina un gruppo di manifestanti si è presentato davanti alla sede di Equitalia a Mestre e una delegazione è stata ricevuta dal direttore. Manifestazione anche a Firenze, nel centro storico, qui da segnalare che attraverso i megafoni i manifestanti, tra cui ci sono anche molti studenti, indirizzavano messaggi alle forze dell'ordine: i poliziotti sono nostri amici, ci faranno strada. Per quanto riguarda Palermo, qui è stato rimosso il presidio in via Basile, mentre tutti i manifestanti si sono poi spostati in piazza Indipendenza, dove c'è la sede della regione Sicilia. E più tranquilla invece oggi la situazione in Puglia, dove ci sono solo alcuni presidi nella provincia di Barletta e poi di Trani e Andria. Grazie a Valeria De Rosa. Dunque, andiamo a sentire che cosa è successo questa mattina a Ventimiglia, com'è la situazione in Liguria con Andrea Ferro. Andrea, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone. A Ventimiglia è stata una mattina di tensione. All'alba è scattato il blocco dell'Aurelia da parte di alcuni manifestanti che hanno posto le loro auto di traverso sulla carreggiata all'altezza della rotatoria di Latte, paralizzando così il traffico per la Francia. Dopo alcune ore il questore di Imperia ha ordinato l'intervento del reparto mobile. Gli agenti hanno sparato lacrimogeni, ci sono stati brevi tafferugli, ma alla fine il blocco è stato rimosso senza ulteriori incidenti e senza feriti. Da lunedì, da quando cioè i cosiddetti forconi sono scesi in piazza, la provincia di Imperia, notoriamente mite per il clima anche sociale, è uno degli epicentri della protesta. A Ventimiglia oggi manifestano anche i lavoratori frontalieri contro il mancato rinnovo del bonus fiscale, in corteo anche studenti e commercianti. Già una cinquantina i denunciati dalla Digos per i blocchi stradali e ferroviari dei giorni scorsi, tra loro figurano anche alcuni esponenti di frange riconducibili all'estrema destra. Per un momento è tutto, Simone, a te. Grazie Andrea Ferro, praticamente tutti in piazza. Ci collegheremo tra l'altro con un'altra manifestazione che sta un po' passando sotto silenzio in queste ore. Ci scrivete via SMS. Luis dice: capisco la volontà di protesta, però sono in ritardo al lavoro sulla tangenziale ovest di Milano e va bene. Scrive un altro ascoltatore invece: dica ad Alfano, io non glielo posso dire che io le istituzioni le rispetto, non rispetto questi delinquenti che le rappresentano, devono andarsene, riferito naturalmente ai politici. Sentiamo dunque che cosa ha detto nell'aula del Parlamento Alfano, riferendo questa mattina, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Massima allerta e massima fermezza contro chi protesta in modo violento. Il ministro dell'Interno Alfano promette linea dura e mette in guardia sul rischio di una deriva ribellistica genericamente indirizzata, dice, contro istituzioni nazionali ed europee a cui non farebbero mancare il proprio sostegno anche organizzazioni antagoniste. Così appunto nella sua informativa alla Camera sulla protesta dei forconi, ma sentiamo la sua voce. Faremo di tutto per assicurare la pacifica manifestazione di chi ha intenti pacifici, ma metteremo tutta la forza dello Stato contro violenti e delinquenti che attentano alla libertà degli altri. Abbiamo segnali chiari sia dal punto di vista delle nostre analisi sia dal punto di vista dell'intelligence, e non sto qui ad aggettivare alcune ali estreme di questi movimenti, ma certamente i nostri occhi sono su di loro e sappiamo esattamente quello che c'è da fare se costoro esagereranno. Chi è nelle istituzioni non cavalchi la protesta, poi ha ammonito Alfano, ma piuttosto si impegna a risolvere il disagio dei cittadini, preoccupato anche Letta, che avrebbe dovuto partecipare insieme a Napolitano al convegno sulla Green Economy alla Sapienza, ma i due forse anche per ragioni di sicurezza hanno dato forfè. La rappresentanza, detto Letta, invece durante l'assemblea della CNA oggi è in grande crisi. Gli attacchi alla politica in questi giorni sono attacchi alla rappresentanza. Intanto c'è stata anche una lunga audizione al Copasir questa mattina del direttore dell'AISI Arturo Esposito, il quale ha confermato l'allarme, ha spiegato che quello dei forconi è un movimento senza una regia unica che presenta una preoccupante saldatura tra soggetti diversi animati dai sentimenti di contrapposizione nei confronti dello Stato e delle istituzioni. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Altre notizie che arrivano adesso invece che riguardano l'economia proprio in questi minuti. Innanzitutto la legge di stabilità, sanzioni ridotte, niente carcere per i delitti di dichiarazione infedele, le manette scatteranno solo per i reati più gravi come le dichiarazioni fraudolente con pene ridotte della metà. Lo prevede una bozza di emendamento che potrebbe essere introdotto nella legge di stabilità per favorire il rientro dei capitali dall'estero. E ancora parla il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato di privatizzazione, dice: Abbiamo un piano a scaglioni tra i 10 e i 14 miliardi di euro che saranno usati per ridurre il debito. Vogliamo parlare ancora una volta di IMU oggi invece, perché la confusione continua ad essere massima. Gianni Trovati, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Raccontaci di questa confusione. La confusione è massima perché l'IMU, abbiamo contato le aliquote, diciamo, che sono in vigore nei comuni per la prima casa e per gli altri immobili, e in tutto l'IMU è deflagrata in 104.000 aliquote diverse, segno di una spiccatissima fantasia fiscale delle amministrazioni locali e segno soprattutto di una imposta che ha un po' rotto gli argini, diciamo così, della normalità e del controllo. 104.000 aliquote perché i vari comuni hanno normato le situazioni più specifiche, più particolari, come peraltro era previsto dalla loro autonomia tributaria. Niente di male, oppure non sarebbe troppo male se questo fosse in un contesto ordinato. Il problema è che le aliquote per il pagamento del saldo entro il 16 sono state pubblicate entro il 9 e quindi ci sono 7 giorni, compreso un sabato e una domenica, per i contribuenti, ma soprattutto per i professionisti, i centri di assistenza fiscale, che di contribuenti ne devono gestire centinaia e centinaia, per fare questa caccia alle aliquote sui siti dei comuni. Siti dei comuni che non sono chiarissimi, dipende. Ci sono alcuni comuni molto bravi che mettono una bella e grossa scritta in home page IMU, uno apre e c'è tutto. Nel comune di Roma io in 2 giorni, non sono bravissimo, ma insomma di IMU un pochino me ne occupo, in 2 giorni non sono riuscito a trovare le aliquote. Altri comuni pubblicano le delibere integrali, visto questo, considerato quell'altro, eccetera eccetera, delle quali non si capisce niente. No, perché sono 50 e rotte pagine. Tutti i dettagli anche sul Sole 24 Ore, che naturalmente continuerà a seguire queste vicende, e quindi insomma prendetelo. Immagino che non pubblicherete tutte le 104.000 aliquote, Gianni, però insomma. No, perché se no ci vuole il trattore, esatto, in edicola domani mattina per ogni copia. Il famoso trattore, ammesso che non sia impegnato a protestare con i forconi. A proposito di chi protesta, saluto Walter Mazzucco, presidente del Segretariato Italiano dei Giovani Medici, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito. Allora, brevemente, innanzitutto, protestate oggi davanti a Montecitorio, forse avete scelto la giornata sbagliata, perché oggi c'è la protesta degli studenti alla Sapienza, ci sono forconi in giro un po' dappertutto, la FIOM al suo secondo giorno di manifestazioni a Roma, e ci siete anche voi, però abbiamo voluto sentirvi per capire perché siete là davanti. Io la ringrazio e devo dirle subito che, nonostante le difficoltà che lei ha richiamato, siamo qui tantissimi, migliaia venuti da tutta Italia nonostante le difficoltà logistiche, ma anche in tutta Italia sono attualmente in atto delle manifestazioni coordinate. Siamo venuti per portare all'attenzione per l'ennesima volta del Parlamento italiano e anche del Governo una nostra vicenda, ovvero quella che allo stato attuale i giovani medici laureati, a fronte di circa 10.000 unità anno, hanno un imbuto, perché soltanto 2, della mia ipotesi 3.000 di essi potranno continuare la formazione, acquisire il diploma di specializzazione, che è il prerequisito essenziale per accedere ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale. Ovvero, questo messaggio assolutamente sconfortante può essere rotto in altri modo, e dire che fatevi le valigie e andatevene all'estero, perché in Italia non c'è spazio per voi. Quanti di voi se ne vanno ogni anno, Mazzucco? Ma guardi, il dato è assolutamente allarmante. Noi non abbiamo dati ufficiali, tranne che quelli pubblicati da alcuni bollettini, però stimiamo che almeno 1.000 sui 7.000 che ogni anno si laureano in medicina chiedano il certificato di congruità, ovvero il titolo necessario per poter, l'attestazione necessaria per poter lavorare all'estero. Da fonti informali sappiamo che, mentre prima i tempi di attesa per ottenerlo erano circa un mese al Ministero, adesso sono diventati 3 mesi, il che ci porta a pensare che il problema sia si è ingigantito. La ringrazio, grazie a Walter Mazzucco, presidente del Segretariato Italiano Giovani Medici, per essere stato con noi. A chi ci scrive via SMS, le aliquote sono 104, non 104.000, no, il calcolo è esattamente 104.000, dipende da comune a comune, poi come sapete ci sono anche i decimali. Parliamo della morte adesso di Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli aveva 70 anni, era nato a Como nel 1943 e soffriva fin da ragazzo di una grave forma di sclerosi. Ma ciò che lo ha ucciso, secondo la moglie Melania, che ha dato la notizia della sua morte, è stata la vicenda giudiziaria in cui si è trovato coinvolto. Rizzoli era stato arrestato lo scorso 14 febbraio per bancarotta fraudolenta per un presunto crack da 30 milioni di euro. Viste le sue condizioni di salute precarie, a fine marzo il Tribunale di Roma gli concesse gli arresti domiciliari. Da allora è stato ricoverato in ospedale varie volte. Angelo era figlio di Andrea Rizzoli, presidente dell'omonima casa editrice, che negli anni 70 era il primo gruppo editoriale italiano. La laurea a 23 anni in scienze politiche all'Università di Pavia, poi la specializzazione in media e communication alla Columbia University di New York. L'anno dopo la morte del nonno Angelo Senior, avvenuta nel 70, Angelone, come veniva chiamato per la sua stazza, a soli 28 anni entrò nel consiglio d'amministrazione dell'azienda di famiglia. Nel luglio del 74 il padre Andrea, per rafforzare la casa editrice, decise di acquistare il primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera, ma col gioiello di famiglia iniziò un enorme indebitamento e alla fine degli anni 70 Angelo Rizzoli venne arrestato per un'altra storia di bancarotta da cui fu poi prosciolto dalla Cassazione. Una lunga vicenda giudiziaria durata 26 anni che portò a 6 assoluzioni definitive. Angelo Rizzoli sposò in prime nozze l'attrice Leonora Giorgi, ma quando si separarono lei chiese metà del patrimonio del marito, valutabile in 400 miliardi di lire. Alla fine la Giorgi ottenne solo 10 miliardi. Dopo un lungo periodo di silenzio, negli anni 90 Rizzoli riprese l'attività come produttore cinematografico e televisivo. Tra le sue produzioni più note, Padre Pio con Sergio Castellitto. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Alfano, sulla rivolta dei forconi c'è il rischio di una deriva ribellista. Chi è nelle istituzioni non cavalchi la protesta. Blocchi questa mattina a Ventimiglia, sgomberati con tafferugli. Il resto della situazione lo avete appena sentito in strada in diretta. Scontri tra studenti e polizia davanti all'Università La Sapienza di Roma. Cariche, due fermati, lancio di petardi e bombe carta, mentre dentro si svolgeva un convegno sull'ambiente. Berlusconi dice: se mi arresteranno sarà rivoluzione. In Italia ci sono stati 4 colpi di Stato. Morto Angelo Rizzoli, era affetto da sclerosi multipla. La moglie, la vicenda giudiziaria gli ha spezzato il cuore. 4 mesi fa la sua condizione era stata dichiarata compatibile con la detenzione. E adesso noi ci vogliamo prendere un attimo di leggerezza, e raccontarvi che cosa sta succedendo davanti all'Hotel Principe di Savoia di Milano. Perché? Perché stasera c'è la finale di X Factor e c'è un gruppo idolo delle teenager che sarà ospite questa sera e che in questo momento è dentro il Principe di Savoia, dove abbiamo mandato Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Spero che riusciate a sentire, finalmente riusciate a sentire le urla dei fan dei One Direction. Sì, le sentiamo perfettamente, a rischio di non sentire te, Stefano. Vai, allora, pure, vai. Spostarmi un po', ma questo è per farvi capire. No, resta là. È impressionante l'urlo dei fan, soprattutto quando si affaccia uno dei 5 cantanti anglo-irlandesi in questo momento. Sta facendo capolino, ora vi mentirei dicendovi il nome esatto, quindi non ve lo dico, ma ha fatto capolino uno dei 5. Ovviamente avete sentito l'urlo di tante adolescenti che sono qui dalle prime ore di stamattina per vedere i loro idoli che, come dicevi tu da studio, si esibiranno questa sera sul palco della finale X Factor, ed è proprio grazie ad X Factor, della versione inglese del programma, che loro sono diventati famosi già da 2 o 3 anni. Dunque tantissime, sono decine e decine, soprattutto le ragazze che sono arrivate qui sotto il Principe di Savoia. Ragazze, qualcuno è venuto, ovviamente nessuno, come potrai capire, nessuno è andato a scuola stamattina per venire a vedere il One Direction, e molte di loro sono accompagnate dalle mamme. Ne ho proprio una accanto a me. Allora, signora, cosa vuol dire avere una figlia fan dei One Direction? Sacrificare le ore di lavoro e tante cose a casa pur di accontentarla e farla felice. Ma lei ha preso ferie oggi? Assolutamente sì. E sua figlia ovviamente non è andata a scuola, lei è d'accordo? Purtroppo una volta nella vita si può fare così, vista l'emozione non potevo negarglielo. Questa dunque è la voce di una delle madri che ha accompagnato la figlia qui sotto al principe di Savoia. Vi farei parlare anche con Camilla, la figlia che è venuta qui. Che cosa sono per te One Direction? Sono la band più brava di tutto l'universo. Quanti anni hai? 9. E quanti poster hai a casa dei One Direction? Ne ho un cassetto pieno. Ma perché sei venuta qui? Non sei riuscita a trovare i biglietti per il concerto? Perché visto che non sono riuscita a trovare i biglietti, la mamma mi ha accontentato venendo qui. Ecco, questo Simone è un po' il clima che si respira. Grazie. Principe di Savoia. Grazie Stefano Totoro, grazie. Poi ci racconterai bene anche il resto magari nel corso della giornata. E noi adesso riprendiamo argomenti, come dire, più importanti. Vogliamo parlare in questo caso di politica economica, di legge di stabilità e soprattutto del decreto sulla scuola. Varato nei mesi scorsi, come sapete, e finanziato prevalentemente con un rialzo delle accise sugli alcolici. C'è la denuncia che arriva da Assodistil, che è l'associazione imprenditoriale che raccoglie Distil, appunto, i distillatori, le aziende, i distillati. Abbiamo in linea il presidente Antonio Amaldi, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Che cosa sta succedendo, Amaldi? Ma la situazione per quanto riguarda il nostro comparto, che dal punto di vista di valore vale circa 1 miliardo di euro a livello nazionale e che raggruppa praticamente tutte quelle che sono le aziende del settore, formando soprattutto da piccole e medie imprese, è estremamente preoccupato per quelle che sono le prospettive che lo riguardano. Le aziende taglieranno posti di lavoro, dite voi? Sì, purtroppo sì, questo è già un dato di fatto che riscontriamo nell'indagine congiunturale che abbiamo commissionato a una società specializzata, dove nell'ultimo trimestre che abbiamo esaminato, quindi quello che va da luglio a settembre, già il 40% delle nostre aziende hanno tagliato posti di lavoro e questo sinceramente a noi dispiace moltissimo, perché questo è un segmento dove vedo gli imprenditori dare ancora un valore alle persone che partecipano alle imprese molto molto elevato. Emaldi, voi lanciate anche un allarme, dite stanno tornando a crescere le distillerie clandestine? Sì, questo sembra quasi essere un effetto ovviamente della condizione generale economica. Lei sa che quando le accise che gravano sugli spiriti oggi o sull'alcol in generale valgono 10 volte il valore commerciale del prodotto, tendenzialmente si genera un potenziale rischio per chi vuole essere non nell'ambito della legalità, per cui ci sono ovviamente gli elementi per chi non è corretto. E quindi sta crescendo questo numero? A giudicare da quelli che sono i risultati delle forze dell'ordine, che vanno a riscontrare sempre più frequentemente distillatori clandestini, direi proprio di sì, purtroppo. Ci dia, al di là di quello che scoprono le forze dell'ordine, un po' di polso di quello che sente dalle aziende da questo punto di vista, Emaldi. Le aziende che ovviamente rappresentiamo sono seriamente preoccupate, poiché di fronte anche a un cambio di stile di vita della popolazione, e noi siamo per un consumo consapevole degli alcolici, dove vediamo diminuire quelli che sono i trend di consumo domestici e dove per le piccole e medie imprese la penetrazione all'estero avviene, ma non con la velocità che vorremmo, ci troviamo di fronte ad avere a volte delle concorrenze che non riusciamo a spiegare con dei prodotti che vengono presentati a prezzi ben al di sotto di quelli che sono i valori delle imposte stesse. Grazie Emaldi, buona giornata, buon lavoro. Fatemi prima del prossimo collegamento dare una risposta a Vincenzo da Udine, che si lamenta per il servizio e per la diretta sugli One Direction. Si faccia dire che ogni tanto ci prendiamo un momento di leggerezza, succede anche a noi, e che comunque la veda è un fenomeno sociale che riguarda i giovanissimi e quindi è qualcosa di cui dare conto. Comunque, noi invece adesso andiamo al nostro appuntamento quasi fisso, è l'appuntamento con la Sardegna. Abbiamo deciso di non lasciare soli i sindaci della Sardegna colpiti dall'alluvione. Oggi abbiamo il sindaco di Onifai, Daniela Saggia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Come vanno le cose? Ma bene, siamo tornati un po' alla normalità. Normalità, dice. Un po', beh, certo, perché comunque i segni rimangono, ovviamente le attività produttive i privati che sono stati colpiti dall'esondazione del fiume hanno ripulito, hanno cercato di sistemare, ma i danni rimangono. Ripartire, insomma, è sempre un po' lento, un po' difficile. Quanti danni avete subito voi? Ma per quanto riguarda il pubblico, in realtà abbiamo contenuto abbastanza danni tra strade rurali e il campo sportivo comunale, si aggirano intorno ai 400.000 euro. Però i privati, soprattutto due attività produttive, sono state duramente colpite. Uno ha perso tutto il deposito, tutto il magazzino, vendevano stufa a pellet, mangimi, insomma materiali vari, hanno perso tutto. Che cosa contate di fare? Che cosa contate di fare dal lato dei finanziamenti? Ci state dentro? Riuscite a tirare fuori soldi per aiutare queste aziende oppure no? Ma in realtà adesso stiamo aspettando come andranno le cose in regione. La regione ha promesso che le attività produttive soprattutto saranno risarcite. Per il pubblico invece ci sarà una lista di priorità, perché ovviamente i soldi non basteranno. Però guardi, per quanto riguarda Unify, noi puntiamo sul risarcimento ai privati essenzialmente, perché comunque è difficile in tempi di crisi così, quando con un mercato comunque è sempre in crisi, riuscire a subire una battuta di questo tipo, rialzarsi, può essere un po' difficile. Grazie Daniela Saggia, sindaco di Unify, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il prodotto interno lordo italiano nel 2014 crescerà solo dello 0,4%, lo dice Standard & Poor's in un rapporto pubblicato pochi minuti fa. Scontri tra studenti e polizia davanti all'Università La Sapienza di Roma, cariche, due fermati, lancio di petardi e bombe carta, mentre dentro si svolgeva un convegno sull'ambiente. Prosegue la protesta dei forconi, blocchi stamattina a Ventimiglia, sgomberati con tafferugli. Alfano dice che c'è il rischio di una deriva ribellista, chi è nelle istituzioni aggiunge non cavalchi la protesta. Arrestata per truffa e peculato, Rosi Canale, fondatrice dell'associazione anti-ndrangheta Donne di San Luca. La settimana scorsa era stata arrestata anche l'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto. Prima di ritornare agli argomenti, ritorneremo sulla vicenda di Angelo Rizzoli, ancora un paio di risposte sul servizio che abbiamo messo in onda, sulla diretta che abbiamo fatto davanti all'Hotel Principe di Savoia, dove si trovano gli One Direction, idoli delle ragazzine. Prima cosa, la risposta a Riccardo. Era veramente un tentativo di un momento di leggerezza e non una marchetta, questo giusto per chiarire, e a tutti gli altri che dicono... Insomma, in una radio seria, un servizio su questo, ricordatevi che c'è tutto un mondo di ragazzini di quell'età che in questo momento non pensa né ai forconi né a altro, ma pensa solamente a quello. Ed è qualcosa da cui avere una cronaca può essere interessante. E poi vi dico anche, fatevi il calcolo di minutaggio di notizie serie date in questa trasmissione e di notizie di questo tipo. Chiudiamo qua. Ivan Scalfarotto, deputato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché l'abbiamo voluta chiamare su Angelo Rizzoli? Perché lei scrisse qualche tempo fa un post sul suo blog, sul suo sito, a mia opinione molto bello, perché dopo un articolo che uscì sulla condizione di Angelo Rizzoli, decise di andarlo a trovare. Angelo Rizzoli, quando lo andò a trovare, si trovava nel padiglione penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. Lo ricordiamo, era affetto da sclerosi multipla ed era indagato, insomma era sotto inchiesta per una serie di cose, tra cui l'accusa era di bancarotta fraudolenta. Che effetto le fece Scalfarotto? Ma un effetto forte, nel senso che Rizzoli era una persona molto molto molto malandata, era paralizzato da tutto il lato destro del corpo e quindi non poteva muoversi, veniva messo su una sedia a rotelle di tanto in tanto, però non poteva muoversi perché non poteva far girare le ruote della sedia, non poteva usare nessun bastone perché naturalmente i regolamenti penitenziari impediscono di avere corpi contundenti per i detenuti, e soprattutto mi fece impressione il fatto che appunto nei 40 giorni in cui era stato in ospedale, quando l'avevo visto io, era stato interrogato soltanto una volta e aveva appunto dovuto aspettare moltissimo tempo. diciamo che ascolti, un... ci sono alcuni suoi colleghi, alcuni del PD che oggi dicono un'occasione per ritornare a pensare su come funziona la carcerazione preventiva in questo paese, altri del centrodestra che dicono è vittima di un uso violento della giustizia, come la vede lei? Ma io penso che il tema delle carceri, la questione carceraria sia un tema gravissimo in questo paese. Noi abbiamo una condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ci ha messo praticamente in una sorta di gogna internazionale, facendoci fare una figura terribile. Noi sappiamo che secondo le norme della comunità europea, dell'Unione Europea, un maiale adulto in un allevamento ha diritto a 6 metri quadrati di spazio. Da noi i detenuti spesso non arrivano a 3 metri quadrati di spazio, quindi la metà di quello che dovremmo destinare a un maiale adulto in un allevamento. È una cosa gravissima, il 40% dei nostri carcerati aspettano un giudizio, quindi non sono detenuti definitivamente, e una buona parte di loro, più o meno la stessa percentuale, un 35-40% dei nostri detenuti sono dentro per violazione della norma contro gli stupefacenti, la cosiddetta Fini-Giovanardi, che è una norma che ha equiparato le droghe leggere alle droghe pesanti, per cui una persona che viene presa con dell'hashish o della marijuana o che ha una piantina di marijuana in casa può avere da 6 a 20 anni di carcere, come fosse come dire, un trafficante internazionale di cocaina. Noi abbiamo una serie di normative che sono veramente cervellotiche e che diciamo penalizzano in modo assurdo con l'utilizzazione del carcere. Anche chi è malato, dice lei. Anche chi è malato. Sì, e anche comportamenti che probabilmente dovrebbero essere sanzionati in un altro modo. E in più comunque un principio generale di civiltà giuridica è che si va in prigione, che si ha diritto ad avere un giudizio definitivo prima di poter essere messi dentro, e non lo si deve fare diciamo in attesa di giudizio. Grazie, Ivan Scalfarotto, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, grazie. E noi oggi torniamo non sulla terra dei fuochi, ma sulle terre dei fuochi. In questa storia la contiguità territoriale, e ci siamo spostati dalla terra dei fuochi come tradizionalmente intesa. Suona quasi strano in un'epoca nella quale i capitali della criminalità organizzata si muovono con una discreta libertà in tutto il pianeta. Ma i rifiuti non li muovi con un mouse o una telefonata, quindi essere ad un passo da Napoli e Caserta conta qualcosa. Il pentito Carmine Schiavone racconta che il suo clan, quello dei casalesi, ereditò per così dire il sud del Lazio dai Bardellino e tramutò parte di quell'area in una zona di sepoltura di scarti industriali, anche tossici. Le dichiarazioni di Schiavone hanno dato corpo ai si dice che in queste vicende contano sempre qualcosa, sono un indizio. A Pastena, provincia di Frosinone, si raccontava di buche scavate poi riempite in una notte, rumore di camion e di bidoni di metallo scaricati, e questo già da molti anni. Poi ci sono i nomi dei luoghi fatti da Schiavone: Borgo San Michele, Gaeta, Scauri, Borgo Montello, che ospita una discarica ad un tiro di schioppo da Latina, nella quale, ha detto sempre Schiavone, ci abbiamo messo i rifiuti radioattivi. Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio. Oggi i nodi stanno venendo al pettine, da un lato insomma sull'inquinamento delle acque del fiume Sacco, appunto, che dà il nome alla valle, dall'altro lato sull'inquinamento atmosferico, che sono i due corni, diciamo, del problema, con un problema che oggi è diventato anche di salute dei cittadini, visto che insomma le analisi svolte all'Istituto Epidemiologico del Lazio ci dicono che attraverso il latte, attraverso insomma la carne animale, eccetera eccetera, alcune molecole pericolose sono andate a finire addirittura negli organismi delle persone che abitano in quella valle. A tutto questo si aggiunge una situazione già piuttosto critica, quella che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato e che riguarda la Valle del Sacco, un fiume, il Sacco, nel quale, nei dintorni del quale, per anni il peso di un'industria particolarmente inquinante si è fatto sentire. Nel giro del pomeriggio metteremo sul nostro sito internet tutti i dettagli di tutto questo e ci metteremo anche gli audio delle interviste integrali che abbiamo realizzato. Intanto sentiamo cosa succede sulle strade. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti.